vedo cosa senza tempo, senza forma glutinosa, leggera. Senza nome come al cielo, come a dire l'infinito, finito. Io non so come ti vedo, anzi ho perso regolarità in precario equilibrio, funambolo di abilità, vertigine, sorprendimi, lasciando come hai fatto già il mio corpo vuoto al suolo, prendo il volo. Il vento forte che soffiava.